il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. In quanti di noi siamo sempre in dieta? E anche se non lo siamo, è vero che oggi c'è una particolare attenzione ai regimi alimentari e per questo alcuni prodotti, anche tradizionali, sono guardati con sospetto. Uno di questi è un salume che piace molto anche perché, forse, costa in proporzione meno di altri, ed è la mortadella. Ha la fama di essere un alimento grasso e poco adatto a chi cerca di stare in dieta. Però non è sempre così. Abbiamo con noi oggi Andrea Raimondi, che assieme alla sorella Emanuela fa parte della terza generazione dei produttori di mortadella dello stabilimento Felsineo di Bologna. Uno stabilimento che tra l'altro è l'unico in Italia a realizzare esclusivamente mortadelle ed è anche il principale produttore di mortadella a indicazione geografica protetta IGP. Dottor Raimondi, la mortadella allora è davvero un prodotto così grasso? Beh, dipende ovviamente da mortadella a mortadella. In effetti una volta il prodotto era molto grasso, adesso non lo è più. Parliamo di mortadelle Bologna IGP, dove abbiamo una percentuale di grasso intorno al 25%. Noi facciamo mortadelle dove il grasso è soltanto il 20%, quindi assolutamente possono essere mortadelle che rientrano benissimo anche in diete. Il grasso si concentra in quelle zone un po' bianche che si vedono particolari, che sono solamente grasso. Esattamente, quello, il cubetto bianco della mortadella è fatto con la gola del maiale, e appunto la mortadella è rosa e bianca, rosa è la parte magra, bianca è la parte del grasso. Con cosa è fatta la mortadella, a parte questo cubetto bianco? La mortadella di qualità è fatta con tagli pregiati, quindi vengono utilizzate le spalle del maiale, quindi solo carne comunque di maiale, spalle, triti magri che possono venire dal prosciutto, dalla pancetta, alle volte anche un ingrediente povero ma tradizionale che è il trippino, cioè lo stomaco del maiale. Quindi possiamo un po' sfatare che perlomeno nelle mortadelle di qualità ci si butti dentro tutto quello che c'è, perché poi girano un po' queste idee, e poi c'è anche l'idea, a volte la tendenza ad associare Wurstel a mortadella, sono due prodotti totalmente diversi. No, sono due prodotti completamente diversi, la mortadella appunto si può fare con carni di qualità e va fatta, andrebbe fatta con carni di qualità, quindi un prodotto assolutamente di pregio. C'è mortadella IGP e c'è anche mortadella non IGP. Quali possono essere le differenze e perché cercare magari la IGP se si può trovare nei supermercati, in genere dove la gente o nelle salumerie? La mortadella Bologna IGP garantisce, secondo un disciplinare di produzione depositato alla Comunità Europea, un procedimento, un utilizzo di materie prime che garantiscono comunque la qualità del prodotto. Quindi sicuramente comprando un prodotto mortadella Bologna IGP si sa che è un prodotto di qualità. Dopodiché bisogna conoscere bene i produttori e selezionare bene quelli che lavorano bene. La vostra azienda ha la particolarità di essere, credo, l'unica oggi che fa solamente mortadella rispetto ad altri salumifici che fanno anche altre cose. Quando siete nati e perché questa scelta? Ma il salumificio è nato nel 1963, mio papà assieme a mio nonno vennero qua a Zola Predosa e cominciarono a lavorare. Poi dopo alcuni anni scelsero la strada della monoproduzione, siamo tuttora a Bologna, quindi innamorati della città di Bologna, hanno scelto la mortadella come prodotto sul quale puntare, quindi noi ci siamo sempre più specializzati nella lavorazione, nella produzione esclusivamente di mortadella. E questa è una scelta che vi sta premiando? È una scelta che ci ha premiato perché abbiamo investito tanto anche in tecnologia e questo ci ha permesso di avere un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ci fermiamo ora per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Keep living till it all falls down. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di mortadella e lo stiamo facendo con il dottor Andrea Raimondi dello stabilimento Felsinio di Bologna. Con mortadelle ce ne sono tante, ce ne sono con i pistacchi, senza pistacchi, adesso ci sono. Voi state lanciando sul mercato addirittura una mortadella naturale. Quali sono un po' le principali differenze? Allora, noi stiamo lanciando la mortadella che chiamiamo la sincera, è una mortadella dove non ci sono additivi chimici, ma soltanto estratti vegetali che fungono da conservanti e antiossidanti. In questo modo cerchiamo di dare al consumatore, anche più attento dal punto di vista salutistico, un prodotto comunque sano e garantito. La mortadella siamo abituati a mangiarla a fette ed a utilizzarla come salume, si può usare però anche come alimento di cucina, con preparazioni particolari? Sì, assolutamente, la mortadella è estremamente versatile, partiamo dagli antipasti, si può abbinare ai primi, si fanno i secondi, è ottima alla griglia, impanata, fritta, davvero gli utilizzi sono tanti, tantissimi, molti la utilizzano anche con i frutti di mare e vanno anche con abbinamenti un po' più arditi. Ecco, quindi abbinamento con i frutti di mare e come vino? Come vino sicuramente un vino con le bollicine, direi, e quindi visto che siamo a Bologna direi che il pignoletto è quello che riesce a sposare meglio la mortadella. Grazie. A voi. Grazie dottor Raimondi. E andiamo a concludere ora la trasmissione con alcune notizie che ci tengono sempre nel settore dell'agroalimentare. Iniziamo ricordando che fino al 9 ottobre è aperta la grande Fiera del Riso di Isola della Scala, una fiera che da mezzo secolo è la più importante festa italiana dedicata al risotto e al riso in Italia. L'edizione del cinquantenario è ricca di novità, a partire da una nuova area d'ingresso dei visitatori e un percorso in grado di raccontare fiere e riso attraverso mostre sensoriali, video installazioni artistiche, spazi espositivi a tema. Tra queste la riproduzione di un'antica corte isolana, tra le cui barchesse si trovano appunto le riserie locali con i propri prodotti. All'ingresso della fiera è visibile un'antica pila da riso recentemente restaurata. Informazioni sul sito www.fieraderiso.it. Cambiamo argomento. Il Centro Studi di CIA Agricoltori Italiani ha diffuso un'analisi sui dati relativi alle vendite al dettaglio nei primi mesi di quest'anno. Dati che sono leggermente positivi da inizio anno per supermercati e soprattutto discount, ma continuano a essere negativi perché le scelte dei consumatori non premiano le piccole botteghe di quartiere che tra gennaio e giugno lasciano per strada un altro punto e mezzo percentuale nelle vendite. Prosegue invece la crescita, come detto, degli acquisti alimentari nella grande distribuzione organizzata, trascinata in particolare dal boom dei discount che segnano un più 1,9% da inizio dell'anno. Non ne beneficiano nemmeno, secondo CIA Agricoltori Italiani, gli operatori delle fasi a monte della filiera agroalimentare, perché sono davvero molti i casi in cui le imprese agricole, con prezzi al campo crollati a luglio fino al 2,1%, non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione. Infine parliamo di materiali compatibili, arriva il Pinatex. È un nuovo materiale che la ricercatrice filippina Carmen Iosa ha inventato a partire dalle foglie di ananas. La studiosa è riuscita a trovare il modo di ricavarne un materiale estremamente resistente e flessibile che all'apparenza e per la sua specifica duttilità è molto simile al cuoio. Si tratta di un prodotto ecosostenibile quasi al 100%, anche se una totale biodegradabilità non è ancora stata raggiunta. Per ottenere un metro quadro di questo cuoio vegetale di medio spessore bastano 480 foglie di ananas, ovvero quelle presenti su soltanto 16 frutti. Il prodotto è stato già scelto da alcune case di moda e alcuni accessori in Pinatex sono già disponibili sul mercato. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.